L'altro pianeta di Laura Bettini. Puntata dell'altro pianeta dedicata al consumo di suolo. Suolo che viene consumato per costruire case, fabbriche, infrastrutture. Il consumo di suolo aumenta vertiginosamente a fronte di una contrazione della popolazione. Ospiti della puntata Paolo Pileri, docente del DIAP, Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano. Domenico Finiguerra, sindaco di Cassinetta di Lugagnano, primo comune italiano a crescita zero. Nicola Dall'Olio, geologo, filosofo, tecnico del servizio agricoltura della provincia di Parma. La parola a Laura Bettini. Affrontiamo a questo punto il capitolo dei costruttori. In primavera Paolo Buzzetti, presidente dell'ANCE, cioè l'Associazione Nazionale Costruttori, in un'intervista ci disse che ricostruire, riqualificare, recuperare sono interventi che i costruttori farebbero volentieri, ma che per lentezze e burocrazia raramente vanno a buon fine. L'abbiamo richiamato nei giorni scorsi per sapere se qualcosa è cambiato e Buzzetti ci ha detto che l'approvazione del decreto 70 del precedente governo ha fornito una serie di norme urbanistiche e amministrative che favoriscono sì degli interventi nelle periferie, ma che manca ancora qualcosa che sentiamo in questo frammento di intervista. Quello che noi pensiamo è che bisognerebbe lanciare un grande programma, di cui poi i sindaci ovviamente debbono essere gli interpreti, di riqualificazione delle città. Cosa servirebbe in pillole? Il fatto che ci si dessero queste priorità e le si indicassero con forza, adottando gli strumenti oggi a disposizione, ma avendo anche da parte del governo e quindi dello Stato un incentivo, una miccia, che non può che essere di natura fiscale, che come è stato adottato in Francia e in moltissimi paesi renda necessario l'accensione della miccia, indispensabile, e quindi la partenza di questi interventi. Quindi coordinare un grande piano. Come Italia abbiamo perso da tanti anni la capacità di fare dei grandi piani di intervento e di pensarli. I costruttori, ci ha detto poi ancora Buzzetti, ormai appartengono al largo fronte di coloro che vogliono risparmiare terreno e lavorare per riqualificare, ristrutturare, mettere in sicurezza l'esistente. Collaboriamo, ha detto ancora, con la società civile, le associazioni ambientaliste, condividiamo certi obiettivi, ma, e questa è la seconda parte, secondo passaggio interessante, rimango sempre sorpreso del vedere che non si riesce più a prendere una decisione di indirizzo forte su dei piani di intervento così diffusi che darebbero un grande contributo all'economia del paese, creerebbero occupazione e farebbero cose utili. In tutti i paesi avanzati hanno fatto interventi, pianificato interventi di questo tipo. Questa leggenda che non ci sono i soldi a noi esperti ovviamente ci fa ridere, perché gli interventi nel campo privato sarebbero con denari privati, ci sarebbero solo incentivi fiscali, e nel campo delle opere di sistemazione, soprattutto le piccole opere di sistemazione idraulica o comunque del territorio, si potrebbe allentare il patto di stabilità dei comuni su queste opere strategiche necessarie. Quindi le cifre di cui discutiamo sono irrilevanti rispetto agli sprechi spaventosi che nel paese si continuano a fare. È veramente incomprensibile perché non si riesce a mettere in moto questo meccanismo. La leggenda che non ci sono soldi ci fa ridere, non usa quindi mezzi termini Buzzetti. C'è malafede, c'è disinteresse per il territorio, mercificazione. Dall'Olio, lei come la vede? Condivido assolutamente le parole che sono state dette, nel senso che c'è bisogno, per invertire la tendenza, proprio anche di un cambio radicale dal punto di vista delle politiche di fiscalità e anche poi culturale, ma comunque insomma le due cose vanno anche insieme. Cioè bisogna cercare di favorire, di incentivare il settore delle costruzioni a recuperare l'esistente piuttosto che a costruire sul terreno libero. Fino ad ora non è stato così, fino ad ora le convenienze di mercato portavano a continuare a costruire sul nuovo anche quando non ce n'erano delle esigenze, e in più rendeva anche complici di questo, li costringeva ad essere complici di questo, Domenico Finiguerra potrà spiegarlo certo meglio di me, i comuni che trovavano nella svendita del territorio un modo per cercare di compensare dei tagli consistenti alle proprie risorse, quindi attraverso gli oneri di urbanizzazione finanziare il proprio bilancio corrente. Quindi è stato una politica che ha portato a fare leva sul territorio per cercare di creare sviluppo. In realtà l'ha depresso lo sviluppo della nazione, e qua bisogna veramente invertire la tendenza, non fare più leva sul territorio, ma fare leva davvero sulle risorse, sull'imprenditoria, cercando di valorizzare quello che già c'è. Domenico Finiguerra l'ha già chiamata in causa Dall'Oglio, l'avrei chiamata comunque in causa io. Come si fa a essere un comune a crescita zero e campare comunque oggigiorno? Intanto volevo dire una cosa, che davvero mi trovo completamente d'accordo con quello che diceva Buzzetti. Paradossalmente, pur essendo su fronti infatti opposti, paradossalmente, chi ha visto la mia faccia ha pensato esattamente così. Ci troviamo a dire le stesse cose e sono contento di questo, perché comunque diciamo che davvero vorrei usare delle parole che sono proprio ancora del campo avverso, no? Le grandi opere. Se noi ipotizzassimo, anziché grandi opere come il TAV in Val di Susa, il ponte sullo stretto di Messina, che non stanno producendo poi granché, e sono contestate nei rispettivi territori, e io le contesto, se queste grandi opere fossero, che sono tra l'altro grandi opere fatte a debito, ricordiamoci anche di questa cosa, perché sono grandi opere fatte a debito, se noi queste risorse le mettessimo a disposizione dei comuni per fare quello di cui si parlava prima e diceva benissimo Buzzetti, una riqualificazione dei nostri centri storici, ci sarebbe da lavorare e ci sarebbe davvero una leva importante da utilizzare per recuperare quei 350.000 posti di lavoro perduti nell'edilizia. Dirò di più, e anche su questo sono molto d'accordo, il patto di stabilità per i comuni è davvero, per le opere di investimento, è davvero una bestemmia in questo momento. Noi abbiamo comuni che hanno milioni di euro in banca e non li possono utilizzare, non possono far partire degli investimenti perché c'è il patto di stabilità che glielo impedisce, e questo credo che sia un grande appello che magari possiamo anche farlo insieme io e Buzzetti, lo faccio molto volentieri. Ma io mi auguro che, perché mi pare che l'unica sia questa, partire da un'altra parte, non dall'alto ma dal basso, insomma. Abbiamo risorse che sono ferme, non stanno producendo nulla, che i comuni non possono spendere, e davvero poi ovviamente noi non siamo l'unico comune ad aver fatto questa scelta, ma ci sono anche altri comuni, soprattutto in pianura padana, in provincia di Bergamo, in provincia di Milano, la provincia di Torino. La provincia di Torino ha adottato un piano territoriale che ha detto basta consumo di territorio, no? Tra l'altro lo diceva benissimo anche Gundula Prokop, diceva della terra fertile del Piemonte. Non a caso è stata la provincia di Torino a dare questo tipo di indirizzo. Allora, noi che abbiamo fatto questa scelta siamo stati considerati quasi degli eroi, perché abbiamo dovuto sacrificare delle entrate, perché dire basta consumo di territorio per i comuni significa fare dei sacrifici. Ma questo tra l'altro è stato anche un buon modo per ritrovare una nuova politica, perché abbiamo dovuto anticipare un po' le politiche di sobrietà che oggi ci troviamo spesso ad ascoltare in televisione, no? Abbiamo tagliato le prediche più che altro, più che le politiche. Diciamo più che altro le prediche, no? Poi la sobrietà nei piccoli comuni si fa da diversi anni, perché davvero c'è una grandissima difficoltà. Io ho assessori che prendono 80 euro al mese e non fanno un'ora di permesso, perché altrimenti la multinazionale ci chiede di essere ristorata. E quindi come si fa a fare tutela del territorio? Si fa rimboccandosi le maniche, cosa che dovremmo fare in tutto il nostro paese, recuperando un po' di amor proprio anche. E noi siamo stati molto contenti che la nostra campagna Salviamo il Paesaggio sia partita, oltre che con la presenza di intellettuali e di assessori di grandi città, perché c'era anche l'assessore Stefano Boeri e l'assessore della Giunta dei Magistris a Cassinetta il mese scorso a promuovere questo nuovo movimento, ma soprattutto con il messaggio del Presidente della Repubblica, che ricordava tutti i sindaci il fatto che i sindaci giurano sulla Costituzione, giurano su quell'articolo 9, però spesso questo giuramento viene tradito, perché poi nel momento in cui io approvo un piano regolatore che prevede l'ennesimo centro commerciale, l'ennesima bretella autostradale, l'ennesimo capannone e la Food Valley, che benissimo ha descritto Nicola Dall'Oglio nel suo documentario, è diventata la Gru Valley, io ho perso valore territoriale e tra l'altro ho ridotto, paradossalmente magari è cresciuto il PIL, però ho perso valore reale. Anche come si diceva in quella sentenza con cui dicevamo si è perso un po' il futuro di chi poi andrà a vivere in quest'area. Pileri, io mi ricordo che lei aveva scritto un articolo, no, in cui diceva insomma reintroducendo l'ICI forse i comuni non dovranno più svendere terreno. È stato poi pubblicato? Sì, è stato pubblicato, si intitola Non ci sono più scuse. Nel senso che, però provo a dire anch'io magari qualcosa, se mi permettete, sull'intervento di Buzzetti, che prego. In linea generale è condivisibile, per carità, però mi piacerebbe rilanciare ai costruttori dicendo bene, ma allora loro sono disponibili ad avvisare tutti i centinaia di migliaia di costruttori e decidere da domani di non andare più a costruire su terreni liberi, perché questa partita del recupero la si fa come se la si è fatta in altri paesi europei, decidendo di recuperare e non consumare più aree libere. È perché sennò il gioco diventa un gioco, come dire, a somma sempre negativa per l'ambiente. Cosa voglio dire? Voglio dire, l'idea è andiamo a recuperare, ma nel frattempo continuiamo a costruire sulle superfici agricole o libere. Questo non può funzionare. Allora, se il mondo della costruzione è pronto a rinunciare, ad andare a costruire tutti quei 5.000 ettari che in un anno in Lombardia vengono costruite, che non sono grandi opere, sono capannoni, villette, piccoli condomini, seconde case, terze case che ancora purtroppo sono costretto a dire che non servono perché non c'è una domanda demografica adeguata a queste costruzioni. Non so se mi spiego, quindi io sono contentissimo che i costruttori vogliano recuperare, io lo auspico perché c'è una valangata di immobili da rimettere a norma, però voglio dire mi piacerebbe che loro dicessero bene, allora noi oggi suscitiamo politiche per risparmiare i suoli, per non andare noi stessi a sollecitare i comuni a rendere trasformabili alcune aree, perché questo, dobbiamo dircelo, ahimè accade anche perché l'urbanistica ha il ventre molle, intendiamoci, oggi purtroppo gli strumenti urbanistici sono strumenti contrattati con i privati e i privati vogliono fare business, ovviamente, come ha detto anche Finiguerra, anche i comuni vogliono fare business purtroppo, perché c'è una combinazione nefasta per cui si possono, come dire, recuperare danari. Scrivevo sulla Stampa dicendo molto chiaramente, attenzione, adesso viene reintrodotta l'IMU, voglio vedere se i comuni che prima dicevano non abbiamo più risorse, dobbiamo urbanizzare per fare cassa, ma dopodomani cosa succederà? Perché attenzione, nel frattempo sono state rese edificabili tantissimi ettari e i privati vorranno realizzare. Certo, quindi là c'è il problema futuro, nel senso che quello che si è deciso ormai e quindi bisognerà vedere come affrontarlo questo futuro. L'altro pianeta. Ultimo quarto d'ora insieme per parlare di consumo di suolo dopo le informazioni sul traffico. Come dicevamo prima della pausa, è il momento di sentire qualche buona pratica europea. Ne abbiamo parlato ancora con Gundula Prokop dell'Agenzia per l'Ambiente austriaca, che ha condotto un'indagine puntuale e precisa su quello che accade in Europa dal punto di vista del consumo di suolo, ma anche delle misure per limitare, mitigare e compensare. Sentiamo Gundula Prokop. In England, I'm not talking about the entire UK, but l'Inghilterra, non l'intera Gran Bretagna, soffriva degli effetti del consumo di suolo già un ventennio fa. Così è stato imposto un vincolo per il quale nuove costruzioni possono essere realizzate solo su aree già urbanizzate. Stanno riutilizzando molto meglio il suolo di quanto non si faccia in Italia, Germania o Austria, dove si continuano a costruire nuovi edifici su terra vergine, mentre si abbandonano molti spazi o costruzioni all'interno delle città. L'uso inefficiente del suolo è tipico di molti paesi europei. Ma ci sono anche buone pratiche in Europa. In Slovacchia la terra agricola di qualità è protetta e bisogna pagare per convertirla in terreno edificabile. E non si paga una volta per tutte, si paga ogni anno. Sono tra i 5 e i 10 euro per metro quadrato, una spesa che tocca non poco il portafoglio. Del resto, bisogna che la gente capisca che un buon terreno non si recupera una volta che ci hai costruito sopra. Dall'olio, le piacerebbe una misura simile a questa che abbiamo sentito illustrare adesso per la Food Valley? Che ne dice? Ma è una misura che non conoscevo, anche se conosco Gundula, ma molto intelligente, perché quella della Slovacchia, perché proprio trasmette l'idea della terra come qualcosa che garantisce delle risorse a lungo termine, cioè garantisce una riproducibilità delle risorse, quindi non basta semplicemente una volta che viene perduta pagare semplicemente una tassa, una tantum. In realtà quello che si perde è un reddito economico, ma anche comunque un servizio ecosistemico ambientale che ogni anno viene garantito, no? Quindi è estremamente, secondo me, intelligente questa misura. Dal punto di vista della Commissione europea stanno prendendo delle decisioni importanti. Nell'ultima comunicazione sull'efficienza nell'uso delle risorse è entrato anche il discorso del consumo di suolo. Manca purtroppo ancora in Europa una direttiva sul suolo, però si è iniziata a dire che mi pare che sia un po' difficile però avere per l'Europa, nel senso, avendo tante realtà così diverse, tante situazioni complicate, magari non è facile una direttiva unica. Sì, è uno dei motivi anche per, insomma, tante differenze anche che ci sono nelle regioni, anche di storie passate. Esatto, per cui non si riesce a portare a termine, però insomma è stato dato l'obiettivo del consumo netto di suolo zero al 2050 su tutta l'Europa, su tutto il continente, e da qua al 2050 sono stati dati anche obiettivi intermedi, e tra questi obiettivi poi si è dato anche sviluppo a studi, linee di indirizzo, linee guida che devono servire ad intervenire già adesso. Tutto questo nella consapevolezza che appunto il suolo è una risorsa scarsa e non rinnovabile, che sarà strategica a livello mondiale, quindi perdere suolo significa impoverirsi sicuramente, perdere una risorsa che garantisce sicurezza alimentare ma anche altre produzioni, e perdere poi una serie di servizi ecosistemici che sono fondamentali per raggiungere altri obiettivi, come ad esempio quelli legati al cambiamento climatico, per esempio. E c'è un altro passaggio dell'intervista che vorrei ascoltassimo insieme, non riguarda più tanto le pratiche per limitare il consumo di suolo, ma la compensazione, cioè la parte che si occupa, diciamo, di restituire alla comunità quello che viene sottratto con la cementificazione. A questo proposito, appunto, gli esempi sono stati questi. Penso che il migliore esempio di compensazione sia quello della città di Dresda. Il loro obiettivo è la crescita zero. Non vogliono aumentare il consumo di suolo della città. Così, chi intende costruire all'interno dell'area urbana deve compensare, deimpermeabilizzare, diciamo così, un'altra area. Insomma, se per costruire un centro commerciale si impermeabilizza un ettaro di terreno, bisogna impegnarsi a restituire un ettaro di terreno buono alla comunità. Finiguara, lei che è un amministratore, che dice questa è una via percorribile? Ma intanto telefonerò al sindaco di Dresda, perché così ci metteremo in contatto. Ma dunque, no, è percorribile assolutamente. C'è una piccola cosa che però vorrei dire, un metro quadro di terra fertile cementificato non lo si recupera più, perché impiega secoli per diventare fertile la terra. Quindi, infatti, questo è un cambio un po' rischioso, nel senso che non tutta la terra è uguale, non tutti gli interventi, esatto, sono uguali. Va ovviamente verificato caso per caso. C'è il rischio, perché comunque chi ha soldi può permettersi di pagare 5-10 euro a metro quadro per i prossimi 50 anni, quindi credo che ci debba essere comunque un'attenzione a considerare la terra un bene comune, non rinnovabile, non riproducibile, e che impiega appunto secoli per diventare fertile. Però la strada è quella giusta, può essere utile per il cambiamento culturale, che questa è la sfida più grossa, più importante. Insomma, ora lei evidentemente rischia di perdere anche un po' di voti, perché questo dobbiamo mettere nel conto. Sì, ecco, poi c'è anche questo, che tante volte si fanno scelte al ribasso proprio per la paura di quello che sarà il prossimo turno elettorale. I suoi cittadini, poiché lei è l'amministratore di un gruppo, non so quanti sono gli abitanti, quante migliaia? 1879. Ecco, lei come li istruisce, o erano già istruiti e infatti hanno scelto lei? Com'è andata la cosa? Ma noi abbiamo preso un impegno molto preciso durante la campagna elettorale, abbiamo dato fatto questo ragionamento con i cittadini: volete continuare come fanno in tutti i comuni attorno a noi, dove si costruisce ad una velocità impressionante, oppure ci teniamo alla terra per le prossime generazioni? E questo comporta anche dei sacrifici, perché abbiamo dovuto anche alzare un pochettino le tasse. per poter compensare il mancato gettito degli oneri di urbanizzazione, e non abbiamo avuto crisi isteriche, ma perché abbiamo spiegato ai cittadini qual è il valore della terra. E oggi invece i politici non spiegano ai cittadini qual è il valore della terra, ma fanno vedere ai cittadini che grazie al consumo di suolo potranno avere una scuola magari meravigliosa, un centro anziani di ultima generazione, o una, spesso ci sono anche opere inutili, che vengono fatte con il consumo di suolo, e i cittadini non hanno una voce diversa da ascoltare. Ma nel momento in cui la politica si mette di buzzo buono e spiega le cose per bene, recuperando anche quello che dovrebbe essere un obiettivo vero della politica, ovvero il cambiamento anche di mentalità, i cittadini seguono, perché i cittadini non sono stupidi. Poi ci sono tantissimi esempi che ci dicono che dobbiamo andare in quella direzione, perché poi non abbiamo toccato comunque in maniera molto marginale il tema del dissesto idrogeologico, perché piangiamo sempre le nostre decine di morti, e 4-5 giorni prima dell'alluvione di Genova si era autorizzato a costruire a 3 metri dall'argine del fiume, dei fiumi in Liguria. Quindi questo è un altro tema importante che credo sia altrettanto utile affrontare come il valore agricolo della terra, ovvero la terra che serve per assorbire acqua, che poi dopo prende velocità e ci fa male. Certo. Abbiamo pochi minuti per chiudere, quindi avrei piacere di sentire un po' il parere sia di Pileri che Nicola Dall'Oglio su questa ultima parte del discorso, ovvero su quello che si può fare magari anche per compensare le situazioni già esistenti ormai. Pileri. Sì, allora la compensazione è sicuramente una delle strategie, che però, attenzione, mi piace ricordare, così magari facciamo anche una proposta, che funziona in quei paesi laddove il suolo è già statutariamente considerato una risorsa ambientale. Questo è importantissimo. Perché? Perché da noi in Italia di fatto è una risorsa regolata, non è neanche considerata una risorsa, ma è un oggetto il suolo, alla fine, una piattaforma regolata da leggi urbanistiche. E di fatto viziato da rendite fondiarie, insomma, ci siamo capiti, speriamo che venga reso edificabile, così ci guadagno. Allora, questo è un passaggio chiave, perché la compensazione funziona in Germania, laddove un'agenzia ambientale ne regola effettivamente l'edificabilità di un suolo libero, perché è una risorsa ambientale, non so se mi sto spiegando. Questo è da chiedere al Ministero dell'Ambiente di provare a riflettere su questa partita, perché in questo momento manca, questo tassello manca. Sennò ogni compensazione viene meno, perché è davvero uno scambio. Allora, di nuovo giochiamo al suolo che è una merce, però il suolo è un bene comune. Se è un bene comune, io credo che vadano veramente rivisti alcune strategie con cui l'urbanistica ha trattato in questo momento il suolo, vanno veramente profondamente riviste a tutti i livelli, dai comuni alle province alle regioni. È una riflessione a salire, certo. Molto forte. Diamo la parola a Nicola Dall'Oglio, che dice anche lei su questa linea? Ma sì, intanto sulla compensazione c'è una precisa gerarchia che ha definito la Commissione europea. Prima di tutto bisogna limitare il consumo di suolo, questo è il primo passaggio. Poi, se si può, si cerca anche di mitigare quelli che sono gli effetti dell'impermeabilizzazione del suolo, quindi cercando ad esempio di avere delle superfici permeabili se proprio bisogna espandersi. E poi, come terzo, c'è la compensazione. Che è vero che a volte è difficile anche compensare una risorsa non rinnovabile che viene consumata, ma è possibile per esempio rimuovere il topsoil, il suolo superiore, che è quello fertile, per portarlo magari in altre zone che vengono poi liberate. Bisogna anche dire una cosa, la compensazione però agisce anche a sua volta come una sorta di incentivo economico per far sì che le imprese si orientino di più sulla riqualificazione del nuovo, perché bisogna fare una riforma fiscale, ma anche introdurre degli oneri ulteriori che non possono essere utilizzati dal comune ovviamente per fare spesa corrente, ma per fare davvero opere compensative, e che quindi portano il mercato a orientarsi verso il riutilizzo dell'esistente piuttosto che del nuovo, perché magari ha oneri fiscali superiori e in più deve anche garantire delle compensazioni ecologiche che, come magari sono in Slovacchia ad esempio, devono essere perpetuate per più anni, no? Quindi c'è tutta una serie di misure da fare, bisogna soprattutto rendersi conto che di fatto continuare a occupare del suolo agricolo in realtà non è che produce ricchezza, ma in realtà ci impoverisce tutti, perché riduce un capitale naturale da cui dipende che è una ricchezza comune. È una ricchezza comune da cui dipendono tantissimi valori economici anche della nostra nazione, soprattutto legati all'agroalimentare, all'immagine, al turismo, che vengono poi perduti per sempre, e poi produce anche moltissimo debito futuro, perché poi dopo i comuni che magari hanno usato questi oneri di urbanizzazione per la spesa corrente devono poi garantire nuovi servizi, devono avere maggiori spese di manutenzione. Quindi tutto questo bisogna proprio cambiare logica e cultura, e dopo poi verranno da sé anche le leggi e i provvedimenti fiscali. E grazie a tutti voi per essere stati con noi fino a questo punto. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.